Sono al telefono con Giulio Macaglione, autore del nuovo fumetto edito da Bao Publishing dal titolo Scirocco. Buongiorno Giulio, benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno Rachele, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, Scirocco è una storia di generazioni. Quindi ti volevo chiedere, Giulio, quali sono queste generazioni che racconti? Da chi sono rappresentate? Sì, sono rappresentate da una famiglia non convenzionale, diciamo. I protagonisti sono tre. Abbiamo Mia, che è un'adolescente di 17 anni che studia per diventare ballerina, suo padre, che è un padre single e omosessuale, e la nonna, che è madre del papà, che si chiama Gianni, che si chiama Elsa, ed è una donna, è un'artista che ha superato un periodo un po' difficile della sua vita, si trova in una fase un po' complicata. Lo definisci proprio un fumetto generazionale perché racconti ognuna di queste tre generazioni o perché si incrociano tra di loro? Sì, direi che è proprio uno scambio tra questi tre personaggi, ognuno dei quali si trova in una fase di passaggio della vita, deve fare delle scelte difficili che poi hanno anche un peso ovviamente su quelle degli altri. Questa storia, questo racconto parte anche da una tua necessità di raccontare una perdita personale. Com'è stato scrivere, buttare giù i tuoi ricordi, i tuoi pensieri, anche i tuoi dolori, immagino? È stato liberatorio, direi, perché insomma, spesso quando si perde qualcuno non si ha la possibilità di esprimere il proprio dolore, il proprio senso di perdita. Per cui raccontarlo in una storia mi è servito un po' a, non dico a superare, perché credo che il dolore non vada superato, ma vada accettato e addomesticato. Ecco, mi è servito proprio a imparare a gestirlo. Altro protagonista, diciamo, se così vogliamo definirlo, di questo fumetto è il paesaggio che si divide un po' tra Venezia e la Sicilia. Come hai raccontato e come hai disegnato questi due luoghi, anche in qualche modo diversi tra loro? Allora, sì, sono due luoghi intanto che sono molto diversi, ma in un certo senso sono accomunati appunto dallo scirocco, che è un vento che caratterizza fortemente il sud Italia, quindi la Sicilia, nello specifico l'ambientazione San Mauro Castelverde, che è poi il paese dei miei nonni, e poi invece Venezia, dove l'acqua alta, cioè tra le cause dell'acqua alta c'è anche appunto il vento di scirocco, quindi mi piaceva questo parallelismo. Peraltro sono due posti dai quali il mare si vede ma non si tocca, e quindi anche questa è l'idea un po' romantica che mi piaceva inserire, e graficamente li ho differenziati con una gamma di colori diversa. Il libro è tutto in bicromia, per cui c'è il nero ed un solo colore per ogni capitolo, e mentre in Venezia ho usato dei toni un po' più freddi, un po' più acquatici, nel capitolo ambientato in Sicilia ho usato un giallo tendente all'oro, che appunto suggerisce un po' la luminosità delle ambientazioni siciliane. Quindi il titolo Scirocco deriva proprio da questo, dal vento effettivamente che colpisce, diciamo, entrambi i luoghi. Sì, assolutamente. Che poi è anche il bar dove lavora Gianni, il papà di Mia, uno dei personaggi. A proposito di personaggi, Giulio, ti volevo chiedere se c'è un personaggio a cui sei in qualche modo più legato. Ma indubbiamente sono legato a tutti e tre i protagonisti, forse Mia e Gianni a fasi alterne sono quelli che esprimono un po' più quello che avevo di dire, per cui quando parlano un po', cioè, ho usato loro per dire cose che avrei voluto dire io, ecco, sono un po' la mia voce. Perfetto Giulio, io ti ringrazio per averci raccontato qualcosina di più di Scirocco e ricordo che è già uscito in tutte le librerie, edito da Bao Publishing già dal 27 maggio. Grazie ancora Giulio Macaglione. Grazie a te, ciao a tutti.